But we have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old. But I haven't actually had too much time to watch. I would say maybe I watch one batter and then I get back to work. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi piace un po' in questi giorni sentir parlare solo ed esclusivamente di calcio, no? Ma non si può una volta tralasciare l'aspetto economico e pensare alle vittime. Mi sembra solo una questione economica questa di far riprendere il calcio. Ha ragione la Pellegrini, brava. Se mi chiedete fra un mese possiamo ripartire, io le direi certamente a porte chiuse. Va molto minimizzato il rischio, diciamo, tra i giocatori e la cerchia di persone che li attorniano e soprattutto anche per il resto della comunità. Voi avete la matematica certezza che non possa più succedere che ci sia un giocatore positivo? Mettiamo che allora ci sia un giocatore positivo. Bisogna sospendere ancora il campionato perché ovviamente quella squadra deve fare la quarantena. È chiaro che la salute del giocatore affermato, la grande star, non può certo essere messa in una condizione, tra virgolette, chiamiamola di privilegio rispetto a un calciatore che gioca in una serie minore. Quindi questo è già un primo tema che la federazione deve affrontare e quindi vediamo che come saprà rispondere. Io lavoro per 1.800-2.000 euro al mese, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 5 a fare le consegne. Un calciatore prende 100 volte quelle che prendo io al mese. Devono giocare, devono rischiare anche loro come rischio io la vita tutti i giorni. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Opinioni sparse tra ascoltatori, autorità, Malagò, Arezza. Abbiamo sentito anche Trump all'inizio, che è stufo di vedere le partite di baseball di 14 anni fa, e non solo lui. Quando Filippo Maria Ricci, Pier, scrive sulla Gazzetta che anche in Spagna si litiga furiosamente, non so tu, ma io provo quel sottile senso di sollievo. Sollievo. Che è figlio però di una delle più grosse stronzate della storia, cioè no, l'odioso allora, detto, ma comune mezzo gaudio. Allora, io credo che onestamente in Italia siamo campioni del mondo di polemiche, questo in generale, però francamente penso anche che un po' è dovuto anche al fatto che noi qui, che ne so, quella dichiarazione di Cellino che abbiamo avuto ieri, quella di Cairo, quella del presidente Tizio, Cario, eccetera, ci arrivano magari all'estero più o meno la stessa cosa, no? È semplicemente che non abbiamo... non lo so, ogni giorno non ci arriva sulle rassegne stampa la dichiarazione del presidente del Bournemouth o del Brighton, ecco. Quindi probabilmente anche se oggi ho letto l'intervista. Oggi però comunque noi campioni del mondo siamo. Sì, sì. Però la Spagna se la gioca. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ciao, saluto anche mister Condò. Ciao Paolo, grazie. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Paolo Condò che si sta esibendo su Twitter, perché voi ragazzi siete avanti con i social in questo periodo, in meravigliose storie sugli stadi che ha frequentato, Paolino. No, non vorrei che cominciassero a scarseggiare a un certo punto. Vorrei dire. Vabbè, ma non c'è problema, Paolo, dai, non scarseggiano. io ho iniziato Tiki Casa il lunedì, il primo lunedì, insomma. Ha detto, vabbè, adesso facciamolo, cioè siamo arrivati alla sesta puntata, non ne posso più, facciamo qualcosa. Ti credo. Ragazzi, primo stadio in cui siete stati, Paolo? L'Olimpico. Olimpico, no, tu Filippo? Campi di periferia, no, dove sono stato a vedere una partita, lo stadio Grezzar di Trieste. Stadio Grezzar. Sicuramente, che non è il Rocco di adesso, il vecchio, lo stadio Pino Grezzar. Uh-huh. Per lavoro, campi della periferia triestina. No, per primo in assoluto. Tu Pierluigi, Olimpico anche tu? Ma direi l'Olimpico, credo una partita d'Italia con l'Argentina, forse un 2-2 nel 79, vado a memoria, mi pare, ma potrei dire... Sì, direi il Roma Cosmos. eri già avanti questo nuovo territorio calcio internazionale, sempre, capito, uno ce l'ha nel sangue. Cioè, Paolo, Paolo arriva, è vero che, come dice Pierluigi, non ci arriva tutti i giorni la rassegna stampa di ogni di giornali di ogni angolo del mondo, sì. Però vado all'odioso detto di qui sopra, ma il comune mezzo gaudio, in Spagna si litiga. Però oggi abbiamo letto tutti l'intervista su Corriere della Sera di Rummenigge, e qui c'è un altro sentimento, che è quello dell'invidia, perché lui dice: no, qui siamo compatti, ci si allena a gruppetti, funziona bene. I giocatori verranno, ai giocatori verrà fatto il tampone, morale, appena possibile ripartiamo, si parla del 28 di maggio. Quella compattezza tedesca io l'invidio tantissimo. Sì, beh, anche stavo vedendo prima proprio su Twitter, stava girando un video della Merkel dove faceva un discorso sulla capacità di contagio, che se diceva, se la capacità di contagio è uno a uno, cioè un positivo ne contagia uno, il nostro sistema sanitario collassa a settembre, se è 1.1 a 1 collassa a luglio, se è 1.2 a 1 collassa a giugno, con una chiarezza e un'evidenza molto, molto tedesca anche questa. E stanno emergendo secondo me all'interno di questo discorso una serie di tipologie, non ti voglio dire parti in commedia, che mi sembrerebbe un po' irrispettoso, ognuno è libero di pensarla, però stanno da una parte vedo quelli che dicono i cinici a oltranza, bisogna riprendere costi quel che costi, perché è un mondo, quello del calcio, che dà da mangiare a troppe persone. Dall'altra parte, sull'altro fronte, ci sono i monaci guerrieri: non dovrete mai più vedere una partita di calcio, dovrete morire tutti finché ci sarà un solo contagiato, e così via. È chiaro che io non aderisco a nessuna di queste due scuole di pensiero. Ritengo realisticamente, detto che ancora sostanzialmente non ne sappiamo niente di quando finirà sta paranoia, se non quando arriverà il vaccino, però il vaccino temo che prima di Natale, inizio anno prossimo, non sarà d'attualità. Ecco, è abbastanza evidente per me che si potrà riprendere quando non avremo più l'unico dato che io guardo, perché l'unico dato vero è i morti quotidiani. Fino a che abbiamo 500 morti al giorno è impossibile riprendere, questo è ovvio. Quando questo numero si sarà di molto ridotto, molto diminuito, e soprattutto la tendenza sarà di una costante diminuzione, certo che bisogna riprendere a giocare. Sì, allora. Io dico giocare a calcio, con buona pace della Federica Pellegrini, che io amo, cioè non ho solo ammirazione, io amo Federica Pellegrini. Spero che mia moglie non mi stia sentendo. Detto questo, quando io dico giocare a calcio, io intendo fare sport agonistico. Dico giocare a calcio perché ovviamente è la filiera, certo, ma che è quello che ha detto anche lei, certo. Però io intendo dire i campioni degli altri sport, del nuoto, dell'atletica leggera. No, ma infatti guarda, è un automatismo. Il suo pensiero è stato questo, che l'ha detto qui l'altro giorno: si parla troppo di calcio, però non è che ce l'ho con quelli, dobbiamo riprendere tutti a fare, noi professionisti di altissimo livello, a fare sport, allenarci. Bellinazzo ci ricorda che il calcio italiano pesa 5 miliardi di fatturato all'anno, e con l'indotto si arriva praticamente al triplo, è quasi un punto del PIL, quindi insomma stiamo parlando, ma lo stesso discorso vale per i giochi olimpici, vale per tutto, e ovviamente vale anche per la pratica sportiva e gli sport che non hanno budget, ma ci mancherebbe. Qui è una doppia valenza, a me dà un po' fastidio sentire tutto sempre ridotto al solito stereotipo dello stipendio di Cristiano Ronaldo o di Lukaku, perché non è quello. O perlomeno non è solo quello, non è che siamo preoccupati per le future generazioni della vita di Cristiano Ronaldo, siamo preoccupati perché il calcio, in maniera particolare, ma in generale lo sport, è anche un settore economico, oltre che un punto di riferimento culturale, identitario, una passione. Anche la facile demagogia dei giocatori più controllati rispetto agli altri. No, devono essere controllati i giocatori, così come chi va a lavorare in fabbrica, perché credo che i parametri debbano essere uguali per tutti, a prescindere poi dal fatto di chi paga i controlli. Filippo, invece, rendimi lieto raccontandomi che in Spagna si continua a litigare, per favore. Sì, assolutamente. Intanto migliorami la giornata. Che ci, che citava Paolo, che appunto lui diceva 500 morti, oggi mi sembra che siano 517 qua, quindi per cui io sono assolutamente d'accordo con lui. Finché le cose stanno così è chiaro che non si può parlare, anche solo per, per una questione di rispetto, non si può parlare di qualsiasi tipo di competizione. E detto questo, in una situazione di gravissima tensione già precedente al, diciamo, all'impatto del coronavirus, si odiano praticamente tra Rubiales, che è il presidente della federazione, poi c'è Davide Aganzo, che è il presidente del sindacato, e Tebas, che è il presidente della Liga. I tre non si metterebbero d'accordo su niente, neanche di fronte a un piatto di tapas litigherebbero su quali ordinare, e figuriamoci con l'arrivo del coronavirus. Sono saltati veramente tutti gli schemi, per cui si stanno denunciando a vicenda, e non si parlano, disertano le riunioni e ognuno fa il suo protocollo. Vabbè, per allora tornare a giocare. Ma allora, questa è la ventata, cioè, di ottimismo che vi, cioè, porta. Diagonale rezza è una cosa proprio da così. No, qui sono veramente, proprio a carte bollate, appunto. No, io alla tua riunione non vengo. Poi uno fa il protocollo per la ripresa delle attività, che poi anche lì protocollo che non si sa bene su cosa è basato, perché non c'è nessuna data. Sì, ci sono delle date, però fine maggio, fine giugno, no? Io l'ultima volta che ho parlato con Tebas mi disse 26 maggio, oppure il primo weekend di giugno, oppure l'ultimo weekend di giugno. Dico, in mezzo ci sono, sono 5 settimane. Sì, ma anche lì c'è chi litiga, c'è chi vuole riprendere o no in funzione della posizione di classifica? Sì, assolutamente. Io partirei dal discorso delle società. Le società, e lì per me hanno qualche ragione, volevano tornare ad allenarsi come fanno in Germania. Gruppetti di due, di tre, il giocatore scende da casa, sale in macchina, va al centro sportivo, si mette in un prato che non è proprio esattamente una zona di contagio, perché non può stare con uno o due compagni, e volevano piano piano farli ritornare a una pseudo normalità, no? Dopodiché ritorna a casa e sta con la sua famiglia. Il Consiglio Superiore dello Sport, l'organo che gestisce lo sport in Spagna, ha negato questa cosa, ha impedito che i giocatori tornassero ad allenarsi, e quindi anche lì il dibattito è ancora aperto. Ecco, e su questa cosa io, secondo me, insomma, vedo che loro, come altri sportivi, secondo me, però chiaro, lì in Italia siamo alla caccia all'uomo con l'elicottero, come diceva, esatto, l'altro giorno Paolo, gli mancava la mitraglietta a quello, per farlo abbatterlo sulla spiaggia. Una cosa ridicola, dai. Cioè, capito, carità, non bisogna uscire. Però insomma, cioè, anche la spettacolarizzazione della sanzione, della caccia della sanzione, anche no, please. No, però ecco, secondo me io parlerei, secondo me ecco, a livello gli sportivi dovrebbero piano piano, in maniera protetta, per me, tornare a fare il loro mestiere. Poi certo, dopo, in maniera, non è che appunto tutti insieme si vanno ad allenare, giochi. Ma anche per un motivo fondamentale, perché se tu apri un'azienda da domani mattina con tutte le forme di sicurezza, ho sentito l'altro giorno Burioni parlare del modello Ferrari, eccetera, e la produzione riparte subito. E per quanto riguarda un giocatore, c'è un tempo tecnico che è un tempo di allenamento, quindi tu non puoi pensare di ricominciare l'attività agonistica se non metti prima un mese di lavoro. Ce lo raccontava proprio Caca, no? La settimana scorsa. Sì. Quindi è nella logica delle cose, secondo me è assolutamente logica delle cose. Soprattutto se in tutti, allora, come logico che sia, quando arriverà il momento nel quale veramente finalmente le curve cominceranno a scendere in modo sensibile e potremo avere la sensazione non che tutto sia risolto, ma che le cose stiano migliorando, stiano andando verso la soluzione, e quando quindi si riaprirà, e speriamo che avvenga il prima possibile per ovvi motivi economici, però dell'economia di tutti, non dell'economia di Ronaldo e Lukaku, ecco, è evidente che in questa fase, secondo me, oggi, il mondo si divide in due parti. I medici e infermieri che stanno facendo un mazzo pazzesco adesso, e quelli che invece in questo momento devono farsi altrettanto mazzo a immaginare e preparare la ripartenza, perché non è che arriverà il giorno in cui il governo, le regioni, chi per loro dirà ok, ripartiamo, e allora, ah bene, adesso vediamo come ripartire. Nel momento in cui dovrà essere lo sparo dello starter, e tutto il paese in tutte le sue professioni, in tutte le sue, dico subito, un mio cavallo di battaglia, io non voglio sentir parlare, quando finalmente si ripartirà, voi avete letto che adesso uno dei problemi denunciati è che troppa burocrazia frenerà la ripartenza. Troppa burocrazia, non fatemi dire una parolaccia, però l'avete intuita. Come i medici e gli infermieri adesso stanno lavorando giorno e notte, da 2 mesi fanno tripli turni, ecco, allo stesso modo io non accetterò che un ufficio statale o privato che sia dica no, alle 5 abbiamo chiuso, facciamo domani mattina le prossime, i prossimi adempimenti burocratici. No, dovranno lavorare, non ti dico notte e giorno, ma dovranno lavorare a ritmo doppio, perché ci sarà lo sparo dello starter e bisognerà ripartire veloci e forti tutti assieme. Assolutamente. Quindi, assolutamente. Allo stesso, no, scusa, poi mi sono perso in un po' di subordinate. Per questo motivo trovo assolutamente normale che adesso tutti, da Malagò a Gravina, ad Alpino e tutti quanti così, provino a immaginare una serie di possibili ripartenze. Sarà fine maggio? Io dubito, però sarà fine maggio, sarà metà giugno, sarà al limite a settembre e spostiamo il calendario internazionale, perché è chiaro che questa dovrà essere una cosa gestita anche da FIFA e UEFA. Certo. E spostiamo tutto il calendario internazionale in senso di anno solare e non più anno scolastico. Ok, facciamolo, ma adesso lo devi studiare e preparare. Quelli che mi saltano su, guardate di cosa stanno parlando! No, ma infatti, stanno lavorando, stanno lavorando, ma giustissimo, è perfetto, devono lavorare anche in questo caso, notte e giorno, prospettando dei scenari di ripresa, mica mettersi sotto le coperte e aspettare che passi la bufera. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, poi torniamo con un'altra lite spagnola. Il calcio dà tanto lavoro e tanta gente è rimasta a casa anche lì. Devono giocare a porte chiuse, ma devono giocare, punto. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Filippo Maria Ricci, rendimi ancora più lieto, parlami del Barça Gate, ultima puntata. Beh, adesso siamo al rimpasto, no? Adesso perché Bartomeu è rimasto da solo, con 12 membri, no? Tra l'altro immagine così, un po' da ultima cena, e ha dovuto, il minimo sono 14, sta cercando nuovi partner da inserire nella giunta, tutti nel circolo di amici di Sandro Rosell. E poi andrà avanti, diciamo, senza più opposizione. Intanto ha fatto la cosa più interessante lì è che aveva scelto questo Rousseau come suo delfino solo in gennaio, e adesso siamo a metà aprile gli ha già fatto causa, no? Perché quello ha detto che hanno messo le mani nella cassa e il delfino è già stato querelato. Ma Bartomeu non ha una chance del Barça. Ma non ha una chance, anche perché è l'amico di Paolo Condò quello che decide le sorti del club blaugrana. Il 10, no Paolo? Il 10, no, il problema è che il 10 è fermo, possa spostare molte posizioni. Il problema è che adesso senza i suoi gol viene tutto, già che tutta questa roba c'è sempre stata sotterranea così, adesso senza i gol di Messi è tutto in superficie ed è un'ebollizione continua. E comunque sono storia più membri della giunta direttiva che calciatori, perché visto l'ultimo periodo del Barcellona non arrivavano neanche a 12, sì, sì, se non perdevi quelli della cantera, quindi diciamo che siamo in linea con quei numeri lì, ecco. No, cioè, io trovo che le fatture da 198.000 euro quando a 200.000 c'è la soglia di controllo, no? E allora le fatture sono state fatte di 198.000 euro e secondo Pricewaterhouse quello che era un lavoro da come valore 150.000 euro, sto parlando di quelli che hanno fatto i tweet, che poi oltretutto hanno fatto anche i tweet contro alcuni nemici della patria catalana, un lavoro da 150.000 euro che è stato pagato 1 milione, no? Praticamente. Sì, sì, e poi attenzione, sono 3 anni, perché occhio, perché si è parlato di un anno solo, quindi 1.200.000, ma sono tre le stagioni, quindi sono 3.600.000 euro. Tratto di un club in gravissime difficoltà economiche. Questo va specificato, perché il Barcellona è veramente sull'orlo del fallimento. E si sono permessi di spendere 3.600.000 per parlar male di Messi e di sua moglie. Mica male. Mica male, no, però oltre. Tanto Tebas Paolo ha detto che qui in Italia Messi non ce lo possiamo mica permettere, quindi è inutile che ci facciamo delle illusioni. No, che non risolve i problemi. Sì, ma tutto, che non, avete troppi debiti, non ve lo potete mica permettere, Paolo, mettiamoci il cuore in pace. E poi, però Tebas era pronto a venire da noi chiedendo anche un onorario che probabilmente i nostri debiti avrebbero mai sopportato, giusto Filippo? Esatto, e proprio per quello non l'abbiamo preso, perché abbiamo una coscienza economica e non ci siamo permessi il presidente della Liga. Gli abbiamo dato ragione, no? Esatto. Intanto però continuano a concupire Lautaro a Barcellona. Vabbè, è normale, insomma, ma anche lì io dico sempre, allora, è chiaro che questa cosa c'è, cioè, l'interesse e tutto, però io invito sempre alla cautela, non sul fatto che lo vogliono meno, che è sicuro, ma sul fatto di come poi dovranno in qualche modo pagarlo, perché anche Neymar l'anno scorso lo volevano e non c'erano i soldi per prenderlo. Rodrigo Moreno a gennaio era un obiettivo, addirittura aveva svuotato l'armadietto a Valencia, però poi è tornato a rimettere le cose dentro perché non c'erano i soldi per comprarlo. Allora, bene, vogliono Lautaro e dovranno fare anche dei sacrifici, perché in questo momento il Barcellona non c'è una lira. Io credo che vorrei sentire il professor Ricci su questo. Credo che il Barcellona sia arrivato al punto di dover ipotizzare una partenza forte, che non sarà quella di Messi, perché vabbè, sappiamo. Però mi sembra veramente che le ultime disavventure, i troppi soldi spesi male negli ultimi due anni, nella campagna acquisti, diciamo tutto il post Neymar, no? Il fatto che comunque il Barcellona si è trovato 300 milioni per Coutinho e Dembélé, Pierre, ecco, no? di avere un sacco di soldi, però lo sapevano tutti. Quando hai i soldi, però poi i giocatori che puoi comprare comunque sono quello che sono, non spendi bene e tutti sanno che i soldi ce l'hai e quindi ti chiedono un 20-30% in più a tenersi bassi, poi alla fine gli errori li fai. È un po' quello che aveva fatto il Chelsea all'inizio della sua avventura, che ha fatto in qualche modo anche il Manchester City, una sorta di effetto droga sul mercato, con in più l'aggravante che il Barcellona, anche dal punto di vista tecnico, non ha speso tantissimo. Quindi io ho la sensazione che loro siano abbastanza in difficoltà, per cui Lautaro sì. Però insomma, no, per quella l'idea di Griezmann non è campata per aria, si favoleggia di questo scambio. Tanto a Fantacalcio si può giocare anche stando in casa. Paolo Condotti, piace, cosa ne penseresti di uno scambio Lautaro Griezmann, lo faresti? Mi pare che Griezmann guadagni 18 milioni all'anno, ecco, esatto. Lo vedo complicato dentro il cartello, per quanto l'Inter sia una società ricca, è un po' complicato uno che guadagna 18 milioni all'anno che arrivi all'Inter, che arrivi, a parte Cristiano Ronaldo, che arrivi nel nostro campionato, perché poi sarebbe più o meno il doppio del secondo giocatore meglio pagato. Qui vado un po' contro i miei interessi di giornalista sportivo e ti dico che secondo me c'è una forte differenza fra quello di cui si parla nelle segrete stanze dei club e quello che compare in prima pagina sul Mondo Deportivo o su Asse e così via. Non credo che in questo momento il mercato sia esattamente in testa ai pensieri di tutti quanti. So che gli agenti, i procuratori in questo momento, il 95% delle telefonate che ricevono dai loro assistiti è sull'argomento: mi taglio lo stipendio o no? Tu cosa dici? Guarda che anche tu ci perdi perché guadagni una quota del mio stipendio. Che non cosa facciamo, andiamo in questo club piuttosto che quell'altro. Anche se poi chi ha mercato, in realtà può trovare anche attraverso questa soluzione di un'eventuale partenza una soddisfazione anche di carattere economico per i relativi agenti. Io credo che tecnicamente è abbastanza interessante, è un giochino, secondo me, sono d'accordo, è un giochino. Tecnicamente, insomma, in prospettiva Lautaro, cioè io non lo farei lo scambio fossi l'Inter. No, è chiaro nemmeno, che esiste un problema possibile al netto della crisi da coronavirus di ingaggio, perché insomma Lautaro è uno di quei giocatori che può ambire, secondo me, a salire a un livello superiore, e livello superiore significa un ingaggio di un certo tipo. che non è sì, semplicissimo. Non sarà mai 18 però, eh. No, non sarà mai 18, anche perché cioè, in ottica, perché Lautaro, allora Lautaro perché è così concupito? Perché è forte innanzitutto, e perché è uno forte che ha ancora un ingaggio umano, sì, e quindi sì, uno veramente sì, certo, da non lasciare partire. No, ma Paolo, ed è giovane, ma c'è anche 7 anni in meno, eh. No, sì, ma l'errore, detto che Griezmann io lo adoro, però l'errore sono quei 18, non è... Certo, sì, perché questo errore deve passare sulle spalle dell'Inter? No, ma infatti, infatti però, credo però, sono quei 18 più i 120 pagati per il cartellino, occhio, l'anno scorso, non è che li hanno pagati 10 anni fa, hanno pagati 120 l'anno scorso, non è che adesso, diceva, adesso lo regaliamo, così ci togliamo lo stipendio. Però il problema degli stipendi è un problema enorme per il Barcellona, e questo è adesso è quello che state dicendo, è esattamente la fotografia di questa situazione. Beh, ma chi, chi se li può permettere 18 milioni per uno come Griezmann, che tra l'altro in questo momento non è nemmeno, non è che sta facendo il fenomeno, insomma. Ma quindi no, no. Ma il Barcellona è affetto da gigantismo, cioè il Barcellona sì, è affetto sì, dal fatto che nel recente passato ovviamente è stata una squadra iconica, è salita moltissimo a livello di fatturati, di anche di profitti per un certo sì, periodo, sì, è arrivato a miliardi praticamente. E sì, adesso la squadra sì, in campo, a parte Messi ovviamente, ma non cioè, ci sono quegli stipendi lì, però secondo me onestamente senza averne la qualità. Gli oppositori del Barcellona si trova nella stessa situazione, provate a pensare a uno Stato che aveva già un enorme debito pubblico e ora viene investito dal coronavirus. Esatto, è così, è così. Grazie ragazzi, grazie davvero. Paolo, è stato un piacere. Ciao Filippo, ciao Filippo. Ciao a tutti. Teniamo duro, ovviamente, e apriamo una edizione speciale del Bar Tour subito dopo la borsa per parlare di Monsieur Le Tour de France, che ha ridisegnato il calendario del ciclismo. Così, ha semplicemente comunicato il nuovo calendario del ciclismo. Allora, noi non siamo più intelligenti o più bravi, l'abbiamo dimostrato che non siamo più intelligenti o più bravi della Germania, della Francia, della Spagna, quindi facciamo come gli altri, riapriamo il calcio, riapriamo tutto, non siamo più furbi degli altri. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci! 800 24 00 24 800 24 00 24 Mister Gente e Pier Pardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Ragazzi, se fossi in voi non vi perderei questa puntata special edition del Bar Tour. Buongiorno ragazzi, Marino Bartoletti e Dottor Rini, ciao. È un piacere come sempre. Anche perché non posso perdermi la vostra opinione dopo che Monsieur Le Tour ha dettato ieri con la voce del Marchese del Grillo il calendario del ciclismo. Tour de France 29 agosto 20 settembre, noi siamo lì, non ci rompete le scatole, fate vobis. Per il Giro d'Italia resta la finestra dal 3 al 25 ottobre, Vuelta a novembre vediamo, e poi vediamo anche se accorceranno d'imperio anche il Giro d'Italia e la Vuelta. Campionati nazionali 23 agosto, tra poco ne parliamo. Dunque, Monsieur Le Tour ha dettato le tavole della legge, gli altri si adattino. Vi piace? Più che Monsieur Le Tour, e l'UCI, cioè Davadi Lapartian, che è casualmente anche il presidente della Federazione Internazionale, oltre che essere francese. Che vuoi che ti dica? Vorrei che Paolo Conte riscrivesse un'altra canzone sui francesi che si incazzano, perché qualcosa dobbiamo fare assolutamente. Abbiamo invaso la Francia per molto meno 80 anni fa. Vorrei che nello sport, in questo momento in cui dovremmo essere tutti uniti, tutti camminare nella stessa direzione, in questo caso tutti pedalare nella stessa direzione, beh, ci ricordassimo che ci sono delle dignità individuali che vanno salvaguardate e gli egoismi no. Dopodiché poi io sarò felice se si farà il tour, se si farà il giro, se si farà la vuelta, se si farà tutto. Però sarebbe bello se ci fosse un pochino di condivisione. Leo, hai già la valigia pronta per settembre? Ma innanzitutto io vi devo portare i saluti di Seb Vetter che ho sentito stamattina. Ah. E mi ha detto, ma questo Bartoletti che tutte le volte è lì che dice che chi vincerà con la Ferrari sarà Leclerc, ma quanti anni ha? 80? Io gli ho detto, no, 96 Seb, devi avere pazienza con me, con Marino, che siamo molto molto anziani. Ma sul tema, guarda, io mi ricordo un sismo, Maria Antonietta, che mangiavano brioche quando il popolo aveva il pane, capito? I francesi hanno fatto la stessa cosa un mese fa con Roland Garros, se vi ricordate, hanno decretato da soli quando avrebbero recuperato il torneo, poi però, ad esempio, nel tennis sono stati già costretti a fare marcia indietro perché il resto del mondo gli ha detto, beh, va bene, voi avrete anche la Torre Eiffel e il Louvre, ma non è che avete il diritto di decidere in assoluta indipendenza e infischiando gli altri. Penso che siano delle fughe in avanti. Io lo dico sempre, purtroppo ce lo ripetiamo sempre anche qui al Bar Tour, viviamo una condizione nella quale è veramente difficilissimo immaginare date di ripartenza. Poi io capisco che tutti devono cercare di tutelare contratti, diritti di immagine, diritti televisivi, va benissimo, ma in realtà anche in questo caso gli amici del tour stanno parlando di niente. Speriamo che si possano fare tutte queste grandi corse che erano dei momenti meravigliosi di aggregazione popolare e che si trovino poi le soluzioni per rispettare le identità e le tradizioni di ogni paese. Ecco, io non ci soffermerei più di tanto perché, ripeto, visto che il ciclismo sono appunto delle fughe in avanti, solo che qui il traguardo nessuno sa dove sia, purtroppo. Sì, anche se ovviamente sono grandi competizioni, sono grandi organizzazioni, grandi macchine organizzative e bisogna guidarle in una qualche direzione. Ma anche facendo questo, un atto, Carlo, di speranza. Perdonami se interrompo. In realtà, fermo restando che ricorrono i 70 anni, come sai, da quel 1950 in cui i nostri corridori, la nostra nazionale, perché allora si correva per squadre nazionali, sì, dovettero lasciare il Tour de France con Magni in maglia gialla, che ancora poverino non ha capito bene perché comunque era stato insultato e forse anche malmenato quello che doveva essere il capitano, cioè Gino Bartali. Ecco, questa volta ho voglia io di menare le mani, sinceramente, o se no ci affidiamo semplicemente a Paolo Conte. Però c'è anche da dire che il Tour a volte anche, non a parità, ma essendo più modesto dal punto di vista tecnico, perché è più monotono, perché non ha le nostre salite, perché l'Italia è fatta in un altro modo, essendo inferiore al Giro d'Italia, tante volte è riuscito a vendersi meglio, anzi ancora adesso si vende molto meglio, da qui la sua sensazione di essere un po' le Marquise del Grillo, ecco, per questo. Però le bisogna Marquise farglielo capire, bisogna farglielo ingoiare. Dopodiché torna a quello che ho detto prima, che ha confermato il mio socio, che d'altra parte nel 50 era con me sul Tourmalet, ah, certo, di Alfredo Binda, no? Sarebbe bello se le facessimo tutte queste cose. Io ho paura, come diceva la mia nonna, che in una bottiglia da un litro non ci sta un litro e mezzo d'acqua. Sì, e intanto c'è Monsieur Filippo Pozzato. Buongiorno. Ciao Filippo. buongiorno a tutti. A tradimento ti ho invitato al Bar Tour con Marino Bartoletti e Leo Turrini. Così impari. Infatti sono onorato di essere con loro due. Intanto tu stai organizzando il campionato italiano, e il campionato italiano dovrebbe precedere, sempre guardando il mondo con gli occhiali rosa, sia il Tour che il Giro, il 25 di agosto. Ovviamente, no, 23 di agosto, perdonami. Ovviamente tutti in coro speriamo. Speriamo, diciamo che siamo stati un attimo in stand by con questa macchina organizzativa, perché chiaramente aspettavamo delle disposizioni dall'alto che sono arrivate ieri da parte dell'UCI. Almeno adesso abbiamo una linea guida, una data su cui basarci. Ci sarà poi da vedere se le istituzioni che ci diranno se possiamo o meno, perché comunque penso ci sia sicuramente il Ministero della Sanità prima di tutto, e poi di conseguenza a scalare avremo con Regione e quant'altro, vedremo cosa si potrà fare e soprattutto come. Cosa ne pensi dell'imperio con cui il Tour ha detto noi ci mettiamo qui, voi fate, organizzatevi tutti intorno? Ma sai, questo è un discorso abbastanza delicato. Devo parlare in maniera diplomatica o dire quello che penso veramente? No, la diplomazia, la diplomazia a Bartur non sappiamo cosa farci. È la prima volta che parli in maniera diplomatica. Infatti. No, allora io penso che prima di tutto ci sia un problema. Noi siamo italiani, chiaramente ci siamo per il Giro d'Italia, ci abbiamo tutti quanti nel cuore, però è abbastanza risaputo che comunque il Tour sia la corsa più importante, è il terzo avvenimento mondiale dopo le Olimpiadi e i campionati del mondo, i quali vengono ogni 4 anni, non ogni anno. Secondo me c'è un problema proprio di sistema ciclismo che non funziona. Questo è un mio modo di vedere la cosa, perché comunque tutti quanti stanno dando potere al Tour, perché tutti continuano a dire che senza il Tour le squadre non vanno avanti, uh-huh. I corridori devono fare il Tour, e quindi danno loro, tutto il mondo del ciclismo, noi, anch'io, mi sento ancora corridore, quindi ragiono da corridore, stiamo dando troppa importanza al Tour. Bisognerebbe riuscire a togliere questa importanza che ha e dare più importanza sicuramente ai corridori, in modo che tutte quante le corse siano veramente un patrimonio del ciclismo, e non una in particolare che sia sopra tutti quanti gli altri, perché a sedersi al tavolo come erano seduti l'altro giorno CPA, gruppi sportivi, grandi organizzatori, alla fine che decide il Tour de France per tutti. E questa secondo me è una cosa che non va bene. Mi sa che la tua diplomazia è piaciuta molto alle mie due stelle. Beh, Pippo Pozzato sulle strade del Giro veniva accolto con un cartello molto diplomatico che era "Viva la fuga", no? Tanto per dire quanto fosse amato dalle folle e anche da me, naturalmente. Do la parola a Leo, ma lasciami dire che... Io sono stato una volta a cena al Montana Maranello con Pozzato per un'iniziativa di beneficenza, e mi sono accorto in quella circostanza che non è stato solo un grande in bicicletta, ma che è anche una bella persona. Grazie Leo. Ciao. È evidente che noi adesso siamo tutti costretti a confrontarci davvero con quello che chiamiamo il mondo nuovo, che non avremmo mai voluto vedere, ma che abbiamo davanti. Non è un discorso che riguarda solamente il ciclismo. Vi ho detto prima che vi portavo i saluti di Vettel, e lui questa mattina mi diceva: ma qui è inutile però che mi si chieda, ma resterai alla Ferrari, contratto, eccetera, perché non sappiamo nemmeno quando potremo riaccendere i motori. E quindi in un contesto del genere è tutto estremamente vacuo, fragile. Secondo me quello che è indispensabile, anche se rischia sempre di suonare retorico, è però che ci sia in tutto, ma veramente in tutti, dalle federazioni a chi è protagonista dell'agonismo, a noi che raccontiamo le imprese, le vittorie, le sconfitte dei personaggi dello sport, che ci sia davvero questa consapevolezza nuova, che niente sarà più come prima. Cioè, se continuiamo a utilizzare i vecchi parametri, cioè allora il Tour ha la priorità perché è il Tour, e allora bisogna assolutamente salvare, che ne so, il campionato di calcio a qualunque costo, non va più bene ragionare così, perché non funziona più così e non sarà più così. Cioè, ci vogliono delle energie fresche, una creatività diversa, e ripeto, sul serio, tutti insieme a ragionare su un modello che non sarà più parametrabile a quello del passato. Sì, ma pensiamo solo a cosa vuol dire, ne abbiamo già accennato nelle nostre conversazioni di bar, quando torneranno gli sport, ma probabilmente per un certo periodo dovranno tornare senza pubblico. Allora affrontiamo questo argomento, a parte il fatto che a me che preoccupa non è la prospettiva diversa, la creatività eccetera, è tutti insieme, perché il tutti insieme mi sembra la parte più complicata. Traffico, torniamo subito con l'autorino Mario Bartoletti e Filippo Pozzato. Il Tour de France è il ciclismo, hanno fatto bene a cambiare, anche perché la Vuelta chi se la guardava? Esiste solo il Tour de France, il ciclismo, e meno male che lo fanno. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. significa poter lavorare da casa o da qualunque posto. Ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enphone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi. E puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enphone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enphone.com/promo. Convocati. Sappiamo tutti che ripartiremo quando ci saranno 0 casi, perché come tutti gli sport siamo a livello mondiale, quindi arrivano persone da tutto il mondo, e questo vuol dire che alla data del tour non ci sarà nessun caso in giro, si potrà partire, e si potrà partire con il pubblico, con i corridori, ma la situazione di porte chiuse io non la vedo una cosa possibile, nel senso che comunque i 200 corridori che partono sono un gruppo di persone. Questo ce l'aveva detto l'altro giorno, una ventina di giorni fa, lì a Viviani. No, Marino, io onestamente il ciclismo a porte chiuse lo vedo anche meno del calcio a porte chiuse, di altri sport a porte chiuse. No, anche perché dovresti fermare il mondo, dai, Filippo lo sa, il ciclismo si alimenta di questo contatto fisico con le persone, a volte anche eccessivo per la verità, di questa prossimità, di questa gioia che porta. Quando nel 1946 uscimmo da un coronavirus che si chiamava Seconda Guerra Mondiale, fu il Giro d'Italia a riportare la serenità, l'allegria attraverso 100 disperati, altrettante biciclette, affamati esattamente come le persone che andavano sulle strade a vederli, che vedendo però quei corridori che si impegnavano, che sudavano, che sbuffavano, che vincevano, che perdevano, che vivevano, beh, ritrovarono almeno la gioia di dire ce la possiamo fare anche noi oltre a questi che pedalano, ecco. È chiaro che non si può vivere di metafore, è chiaro che questa è una guerra assolutamente molto strana, però se togli il pubblico al ciclismo veramente è come togliere la gioia di vivere, di respirare e di essere. Pippo, che ne pensi? Sicuramente quello che ha detto Marino è vero, infatti oggi noi abbiamo mandato fuori un comunicato stampa dove dicevamo ci piacerebbe essere un po' la rinascita di tutta quanta l'Italia dopo questa tragedia che è successa, visto che sarà la prima grande corsa in Italia che segnerà il campione italiano. Però appunto io sono anche consapevole, sto bene con i piedi per terra, perché comunque noi facciamo un sacco di valutazione, ma non spetta a me dirlo, non spetta all'UCI, ma come dicevo prima, la cosa più importante spetta agli enti competenti dire se possiamo o non possiamo farlo. Anche perché io sono dell'idea che viene prima di tutto la salute degli atleti, ma delle persone, quindi dobbiamo venire fuori da questo problema vero e proprio, e da lì poi ripartiremo con tutto, perché è vero che noi viviamo di ciclismo, lavoriamo con il ciclismo, abbiamo vissuto e amiamo il ciclismo, però la vita è la cosa più importante, quindi va rispettate le vite che sono andate perdute in questa tragedia. C'è dubbio. E cerchiamo di ritornare nel miglior modo possibile, ma con i limiti o con le regole che potremmo guardare. Questo è in dubbio la premessa di tutto. Resta il fatto che appunto il ciclismo per sua stessa natura, Leo, non è un autodromo, non è uno stadio, non è una cosa di questo tipo. Infatti vedi, prima Marino ha giustamente evocato il giro del 1946, io e lui c'eravamo già, e viene considerato il più grande giro d'Italia, perché fu appunto quel momento in cui iniziò a suturarsi la ferita del disastro bellico, e tra l'altro fu una corsa entusiasmante con Bartali che batté Coppi per appena 12 secondi, una roba da Guinness dei primati come distacco contenuto. E il ciclismo è sempre stato la festa popolare per antonomasia. Io quando ero bambino mi ricordo che andavo sulle strade per vedere passare la Milano Vignola, che era una classica velocissima dove tu vedevi transitare i corridori a 50 all'ora, non li riconoscevi neanche, ma era pieno di gente che poi naturalmente si inventava di avere individuato Merckx piuttosto che Gimondi in quel gruppo che sfrecciava a una velocità impressionante. È quello che dicevamo prima, pensare al ciclismo senza gente sulle strade, ma come si fa? Quindi sono tutte problematiche che mai avrei. Come dice Marino, dovresti chiudere il mondo. Dovresti chiudere il mondo. A proposito di mondo del ciclismo, Pippo, ho letto che ci sarà anche il pavé nel prossimo campionato italiano. E ovviamente a me, e credo anche a Marino, è venuta. Si è rizzato il pelo, perché per quanto mi riguarda il massimo della libidine sportiva annuale, dato che sono abbastanza anziano come lor signori, sono Monte Carlo, in Mugello, in particolare le due arrabbiate, Wimbledon e il pavé della Parigi-Roubaix. Quindi questi sono il momento di mia massima libidine stagionale, il che è tutto proibito in questo momento. Ma sai che c'è un'altra libidine, Carlo, scusa se ti interrompo. In questo caso, se il campionato italiano si disputasse il 23 agosto e quindi a fine agosto, la maglia tricolore esordirebbe al Giro di Francia e poi sarebbe anche al Giro d'Italia, cosa che non è mai avvenuto, perché il campionato italiano veniva disputato sempre dopo. Però lasciami dire, si parlava l'altro giorno dei campioni, come dire, imperfetti, quelli che non hanno vinto tutto quello che potevano vincere. Pippo è sicuramente un campione imperfetto, perché sono tante le gare che non ha vinto e anche per fortuna quelle che ha vinto, ma ciò nonostante non possiamo non amarlo, non ricordarlo con l'affetto che si porta prima di tutto un campione. Lasciami aggiungere che correva l'anno 2010 ed è il motivo per cui io parlerò sempre con amore di questo corridore che è dall'altra parte del telefono. Eravamo, mi sembra, col Giro in Valtellina, quel giorno mi nacque un nipotino che si chiamava Filippo. Il giorno dopo Filippo Postato si presentò con la sua maglia tricolore bruttissima, fra l'altro, me la regalò e io la portai a Filippo il giorno dopo. Come posso non amare un campione così, un uomo così? Ma era la maglia più bella che è stata utilizzata. C'era disegnato il Cremlino sullo sfondo, ma lascia perdere. Mio nipote meritava molto di più. Ma ce ne sono state fatte altre due dopo, oltre a quella del Cremlino. C'era anche una con la fascia tricolore bassa, ma piuttosto. Sì, a me è toccato il Cremlino. Sei stato sfortunato. Senti, ma c'è il pavé o no? No. Sì, tornando a questo, ecco, diciamo che questo l'abbiamo ottenuto un po' per ultimo, perché volevamo confezionare un po' una sorpresa per tutti gli amanti di ciclismo. Penso poteva essere una bellissima cosa. Purtroppo sto coronavirus ha rovinato un po' i piani e quindi l'abbiamo detto un po' così, doveva uscire in questi giorni subito dopo la Parigi-Roubaix. Diciamo che l'idea non è venuta direttamente da me, ma sono stato chiamato dal sindaco di Colceresa, che è dove si trova questo strappo in pavè, e mi ha detto: voglio portare tutto quanto il campionato italiano da noi, come facciamo? Gli ho detto: impossibile, la Rosina non si tocca, perché è una cosa storica, un circuito che nasce da tantissimi tantissimi anni passati di classiche, di premondiali fatte, Giri d'Italia, quindi era un po' anche un regalo che volevo fare a Gaetano, che è il proprietario del ristorante La Rosina e che ha sempre fatto arrivare lui un po' il Giro d'Italia a Marostica e organizzava un po' le premondiali. Quindi dall'affetto che nutro nei suoi confronti, visto che è un po' il mio papà adottivo, ho voluto fargli questo regalo. Quindi da lì non si scappa, però ho detto: mi stuzzica parecchio l'idea del pavè, perché comunque potremmo mettere dentro un tocco di classica all'interno del campionato italiano e verrebbe un qualcosa di carino. Non voglio fare troppi giri su questo strappo, perché sarebbe troppo per specialisti, ma vorrei far sì che fosse un mix che va bene un po' per tutti i corridori, dove c'è la possibilità che possa vincere un Vincenzo Nibali, che è un corridore da grandi giri, possa vincere un Trentin, che è un corridore da classiche, o possa vincere un Elia Viviani, che è un velocista. Cercare di fare una cosa che sia abbastanza spettacolare, che possa dare l'opportunità a tutti di indossare la maglia di campione italiano. Guarda, piuttosto che fare una cosa specifica. Se dovesse andare tutto bene, è nata un po' l'idea. Se dovesse andare tutto bene, sarà un evento imperdibile quello. Noi votiamo a favore, Leo e Marino. Assolutamente. Volevo solo aggiungere che Marino è stato, come sempre, molto modesto prima. Non era solo per il nipotino quel tricolore di Postato, che nel 2010 Marino compiva 90 anni, eravamo assieme e disse: ma sai, io con la scusa del nipotino, ma se mi facessi regalare una maglia tricolore da Postato? E allora io andai da Postato e gli dissi: dai, regali sta maglia che compie 90 anni, almeno abbia qualcosa da portare a casa, hai capito? Quindi io sono doppiamente grato a Filippo per quel gesto di grandissima cortesia. Ma gli è toccata quella col Cremlino. Vabbè, ragazzi, grazie a tutti. Grazie a tutti, scendiamo dalla Pippo. Bicicletta. Ciao Pippo, grazie. Ciao. Grazie a voi, buon pomeriggio. A presto, ciao. Ovviamente grazie a Marino Bartoletti e Leo Turrini, come sempre. Oltre che a Laura Manos e Claudia Schiattone in redazione, a Roberta Frisani in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.